Dalla volta che Cottard era entrato con me nel piccolo casinò di Ancarville, e sebbene non condividessi l'opinione da lui manifestata quel giorno, Albertine non mi parve più la stessa. La sua vista accendeva la mia collera. Io stesso ero cambiato nella misura in cui lei mi sembrava diversa. Avevo smesso di volerle bene. In sua presenza, in sua assenza, quando sapevo che le sarebbe stato riferito, parlavo di lei nel modo più offensivo. C'era tuttavia qualche tregua. Un giorno seppi che Albertine e André avevano accettato entrambe un invito a casa di Elstir. Sicuro che l'avessero fatto in vista del divertimento cui avrebbero potuto abbandonarsi come due collegiali durante il ritorno, imitando le fanciulle equivoche e trovando in ciò un inconfessato piacere di vergini che mi stringeva il cuore, piombai senza preavviso da Elstir per ostacolarle e privare Albertine del piacere su cui faceva assegnamento. Ma non c'era che André. Albertine aveva scelto un altro giorno in cui doveva andarci anche sua zia. Mi dicevo allora che Cottard si era sicuramente sbagliato. L'impressione favorevole procuratami dalla presenza di André senza l'amica si protraeva, mantenendo in me disposizioni più dolci nei riguardi di Albertine. Ma queste non duravano più a lungo del fragile benessere di persone delicate soggette a miglioramenti passeggeri e che un niente basta a far ammalare di nuovo. Albertine incitava André a giochi che, senza spingersi molto lontano, non erano forse del tutto innocenti. Soffrendo di tale sospetto, finivo con l'allontanarlo. Ma ne ero appena guarito che rinasceva sotto un'altra forma. Avevo visto André con uno di quei movimenti graziosi che le erano particolari, posare teneramente il capo sulla spalla di Albertine, baciarla sul collo, socchiudendo gli occhi. Oppure si erano scambiate un'occhiata, o qualcuno che le aveva viste insieme, sole, mentre andavano a fare il bagno, si era lasciato sfuggire una parola. Piccolezze che vagano abitualmente nell'atmosfera da cui siamo circondati e che la maggior parte delle persone assorbe da mattina a sera senza che la salute ne risenta o l'umore si alteri, ma che risultano morbose e generatrici di nuove sofferenze per chi vi è naturalmente predisposto. Addirittura a volte, senza rivedere Albertine, senza che nessuno mi parlasse di lei, ritrovavo nella memoria una sua posa accanto a Giselle, che allora m'era parsa innocente, mentre adesso bastava distruggere la calma appena ritrovata. Non avevo nemmeno più bisogno di andare a respirare all'esterno dei germi pericolosi. Mi ero, avrebbe detto Cottard, autointossicato. Pensavo allora a tutto ciò che avevo saputo dell'amore di Swann per Odette, del modo in cui Swann era stato raggirato per tutta la vita. In fondo, a pensarci bene, l'ipotesi in base alla quale costruì a poco tutto il carattere di Albertine e interpretai dolorosamente ogni momento d'una vita che non mi era possibile controllare per intero, fu il ricordo, l'idea fissa del carattere di Madame Swann, così come m'era stato raccontato. Tali racconti contribuirono a far sì che in seguito la mia immaginazione giocasse a supporre che Albertine, anziché essere quella buona ragazza che era, avrebbe potuto avere la stessa immoralità, la stessa capacità di inganno di un'ex puttana. E pensavo a tutte le sofferenze che mi sarebbero toccate in questo caso se mi fossi innamorato di lei. Un giorno, sulla diga, dove eravamo riuniti davanti al Grand Hotel, avevo appena rivolto ad Albertine le parole più dure, più umilianti. E Rosemont diceva: «Come siete cambiato però nei suoi confronti? Una volta non c'era che lei, era lei a dettare legge, adesso non è più buona nemmeno per i cani». Per dare maggior risalto al mio atteggiamento verso Albertine, stava usando tutte le attenzioni possibili ad Andrée, la quale, se era affetta dallo stesso vizio, mi sembrava più scusabile perché malaticcia e nevrastenica. Quando vedemmo sbucare al piccolo trotto dei suoi due cavalli, nella via perpendicolare alla diga al cui angolo ci eravamo raccolti, il calesse di Madame de Cambremer. Il primo presidente, che in quel momento si dirigeva verso di noi, deviò con un balzo riconoscendo la carrozza per non essere visto in nostra compagnia. Poi, quando pensò che gli sguardi della marchesa potessero incrociare i suoi, si inchinò lanciando un'immensa scappellata. Ma la vettura, anziché continuare, come era parso probabile, per Rue de la Mer, scomparve oltre l'ingresso dell'albergo. 10 minuti dopo, il lift venne, ansimante, ad avvertirmi. «La marchesa di Camembert sta venendo dal signore. Sono salito in camera, ho cercato in sala di lettura, non riuscivo a trovare il signore. Fortuna che mi è venuto in mente di guardare sulla spiaggia!» Aveva appena finito il suo racconto, che, seguita dalla nuora e da un signore molto cerimonioso, s'avanzò alla mia volta la marchesa in persona, reduce probabilmente da un trattenimento o da un tè nel circondario, e tutta incurvata, più che dal peso degli anni, dalla moltitudine di oggetti sfarzosi di cui stimava cortese e maggiormente degno del suo rango essere ricoperta, per apparire in pompa il più possibile magna alle persone cui aveva fatto visita. Era insomma quello sbarco dei Cambremer in albergo che la nonna un tempo aveva tanto paventato quando voleva che Le Grand Dame fosse tenuto all'oscuro del nostro possibile viaggio a Balbec. La mamma allora rideva di quelle paure, ispirate da un avvenimento che riteneva impossibile. Ecco che invece alla fine s'avverava, ma per altre vie e senza che Le Grand Dame c'entrasse per nulla. «Posso restare se non vi disturbo?» mi chiese Albertine, nei cui occhi, strappate dalle crudeltà che le avevo appena dette, indugiavano alcune lacrime, che notai facendo finta di nulla, ma non senza rallegrarmene. «Dovrei dirvi una cosa». Un cappello piumato, sormontato a sua volta da uno spillone di zaffiri, era posato alla belle meglio sulla parrucca di Madame de Cambremer, come un'insegna la cui esibizione fosse necessaria, ma bastevole, la positura indifferente, l'eleganza convenzionale e l'immobilità superflua. A dispetto del caldo, la buona signora aveva indossato una mantellina di jet simile a una dalmatica, al di sopra della quale pendeva una stola d'ermellino, la cui presenza sembrava in rapporto non con la temperatura della stagione, ma col carattere della cerimonia. Infine, sul seno di Madame de Cambremer pendeva, a guisa di croce pettorale, un tortiglio baronale appeso a una catenella. Il signore era un celebre avvocato di Parigi, di nobile famiglia, venuto a passare 3 giorni dai Cambremer. Era uno di quegli uomini cui la consumata esperienza professionale fa un po' disprezzare la loro professione e che dicono, per esempio, «So d'essere un buon oratore, per questo le arringhe non mi divertono più». Oppure, «Operare non mi interessa più, lo so che opero bene». Intelligenti, artisti, vedono brillare attorno alla propria maturità, cui il successo ha garantito rendite cospicue, quell'intelligenza, quel temperamento artistico che i colleghi riconoscono loro e che li correda di qualcosa che assomiglia al gusto e al discernimento. Appassionatisi alla pittura, non già ad un grande artista, ma ad un artista comunque ragguardevole, investono i lauti proventi della loro carriera nell'acquisto delle sue opere. Le Sidaner era l'artista prescelto dall'amico dei Cambremer, persona del resto assai gradevole. Parlava bene dei libri, non di quelli dei veri maestri, bensì degli scrittori che fanno sfoggio di maestria. Il solo difetto fastidioso di questo dilettante era l'uso continuo di certe frasi fatte, per esempio, nella maggioranza dei casi, che dava a ciò di cui voleva parlare una sfumatura di importanza e di incompletezza. Madame de Cambremer aveva approfittato, mi disse, d'un ricevimento svoltosi quel pomeriggio in casa di amici, non lontano da Balbec, per venire a trovarmi, come aveva promesso, a Robert de Saint-Leu. Sapete che verrà presto a passare qualche giorno nella zona? Suo zio Charlieu è in villeggiatura da sua cognata, la duchessa di Luxembourg, e il signor di Saint-Leu approfitterà dell'occasione sia per andare a salutare sua zia, sia per rivedere il suo vecchio reggimento, dove è molto stimato, molto ben voluto. Noi riceviamo spesso degli ufficiali e tutti ci parlano di lui con infiniti elogi. Come sarebbe carino se ci faceste il piacere di venire tutti e due a Féterne. Le presentai Albertine e le sue amiche. Madame de Cambremer disse i nostri nomi alla nuora. Costei, così gelida con i nobilucci che i rapporti di vicinato di Féterne la costringevano a frequentare, così piena di riserbo per timore di compromettersi, mi tese invece la mano con un sorriso radioso, rassicurata e rallegrata com'era di fronte a un amico di Robert de Saint-Loup, che questi inoltre, più attento alle sottigliezze mondane di quanto non volesse far credere, le aveva detto essere molto legato ai Grammont. Al contrario della suocera, Madame de Cambremer disponeva infatti di due forme estremamente diverse di cortesia. Sarebbe stata al massimo la prima, secca, insopportabile, che m'avrebbe concessa se l'avessi conosciuta attraverso suo fratello Le Grandin. Ma per un amico dei Grammont non aveva mai abbastanza sorrisi. In albergo, il locale dove si poteva ricevere con più agio era la sala di lettura. Quel luogo un tempo terribile, dove adesso entravo e uscivo 10 volte al giorno con assoluta libertà, da padrone, come quei pazzi tranquilli e da così lungo tempo ricoverati in una casa di cura che il medico ne ha affidato loro le chiavi. Proposi dunque a Madame de Cambremer di recarci là. E poiché quella sala non mi ispirava più né timore né fascino, dato che il volto delle cose cambia per noi come quello delle persone, glielo proposi senza alcun turbamento. Ma la marchesa rifiutò, preferendo restare fuori, e così ci sedemmo all'aperto, sul terrazzo dell'albergo. Vi trovai e raccolsi un volume di Madame de Sévigné, che la mamma non aveva fatto in tempo a portare con sé nella sua fuga precipitosa quando aveva saputo che c'erano visite per me. Era terrorizzata quanto la nonna da queste invasioni di estranei e, temendo di non potersi più sottrarre se si lasciava accerchiare, scappava con una rapidità per la quale mio padre e io ci burlavamo sempre di lei. Madame de Cambremer teneva in mano, assieme all'impugnatura d'un ombrellino, varie borsette ricamate, un portafogli, una scarsella d'oro da cui pendevano file di granati e un fazzoletto di pizzo. Mi sembrava che sarebbe stato più comodo per lei posare tutto su una sedia, ma sentivo che sarebbe stato sconveniente e inutile chiederle di spogliarsi degli ornamenti della sua tournée pastorale e del suo sacerdozio mondano. Guardavamo il mare calmo, dove alcuni gabbiani galleggiavano qua e là come corolle bianche. A causa del livello medio cui ci fa scendere la conversazione mondana, nonché il desiderio di piacere, non grazie a quelle fra le nostre qualità che noi stessi ignoriamo, ma grazie a ciò che riteniamo debba essere apprezzato da chi ci sta accanto, mi misi istintivamente a parlare a Madame de Cambremer, nata Le Grandin, nel tono che avrebbe potuto usare suo fratello. «Hanno», dissi riferendomi ai gabbiani, «un'immobilità e un candore da ninfee». E in effetti era come se offrissero un bersaglio inerte alle piccole onde che li sballottavano, tanto che queste, per contrasto, sembravano animarsi nella loro rincorsa, sospinte da un'intenzione. La marchesa madre non si stancava di celebrare la superba veduta del mare che avevamo a Balbec e mi invidiava, lei che dalla Raspellier, dove quell'anno peraltro non abitava, vedeva le onde a una così grande distanza. Aveva 2 singolari abitudini che derivavano, al tempo stesso, dal suo amore esaltato per l'arte, soprattutto per la musica, e dall'insufficienza della sua dentatura. Ogni volta che parlava d'estetica, le sue ghiandole salivari, come quelle di certi animali nei periodi di calore, entravano in una tale fase di ipersecrezione che la bocca sdentata della vecchia signora lasciava filtrare agli angoli delle labbra lievemente baffute qualche goccia inopportuna. La ringhiottiva prontamente con un gran sospiro, come se stesse riprendendo fiato. Infine, se si trattava di qualche straordinaria bellezza musicale, alzava nel suo entusiasmo le braccia al cielo e proferiva alcuni sommari giudizi energicamente masticati e all'occorrenza in tono nasale. Ora, io non avevo mai pensato che la volgare spiaggia di Balbec potesse realmente offrire una veduta di mare, e le semplici parole di Madame de Cambremer modificavano le mie idee sull'argomento. In compenso, egli lo dissi, avevo sempre sentito celebrare l'incomparabile vista che si godeva dalla Raspellier, situata sulla cresta della collina e dove, in una grande sala con due camini, tutta una fila di finestre guarda in fondo ai giardini tra le foglie il mare sino a Balbec e oltre, mentre un'altra fila di finestre si apre sulla valle. «Come siete gentile e come ben detto! Il mare tra le foglie è incantevole, sembra quasi un ventaglio!» E da un respiro profondo, destinato a richiamare la saliva e ad asciugare i baffi, sentì che il complimento era sincero.